Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti alle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e la programmazione serale di Blu Radio Sera. Una buona serata da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara, che è ancora insieme a me. Buonasera Maurizio. Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera Flavio. Allora, anche in questa sera grandi ospiti, Maurizio, e sono particolarmente emozionato di ospitare ancora una volta chi nel mese di maggio ci aveva proposto un qualcosa di veramente grande che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Però, visto che non gli bastava questo lavoro formato da 3 CD, quindi stiamo parlando di una trilogia, è venuto qui a presentarci un altro album fatto in versione solista, e diamo il benvenuto a Michele Gazdic. Buonasera Michele. Buonasera a tutti e sono molto lieto di essere tornato in loco. E allora, in questo caso presentiamo un CD che ti vede come protagonista assoluto, un CD che ha il titolo davvero particolare, un titolo che fa l'imperdonabile. Come mai questo titolo, Michele? Ho scelto questo titolo in omaggio ad una poetessa italiana che si chiama Cristina Campo. Ha lasciato questo mondo negli anni 70. Lei era solita chiamare imperdonabili i veri artisti, quelli dal cuore puro, indifferenti al soldo e alle mode, tesi solo alla perfezione della propria opera e del proprio cuore. Di rado il mondo perdona a tali artisti, come sappiamo, si gradisce di più il banale, il previsto, e questi imperdonabili di solito finiscono in esilio con le orecchie tagliate, presente Van Gogh. Sì, ma esatto. Drammatiche vite di questi imperdonabili sono comunque, a parer mio, sempre illuminate dalla gioia della creazione, dalla fede nella bellezza. Mi piaceva quindi riprendere questa definizione di appunto Cristina Campo, e tra l'altro c'è un libro a suo nome, Gli Imperdonabili, pubblicato da appunto Adelphi, per chi volesse. E l'idea è stata di dare questo titolo al mio album, perché mi pareva che caratterizzasse anche questo progetto. Ma non è il caso tuo, perché Cristina, la poetessa, diceva chi scrive poco, lei avrebbe voluto anche scrivere ancora meno. Non è il tuo caso, fortunatamente. Ma il mio caso è stato molto, insomma, particolare, perché ci eravamo già incontrati, ad esempio, anni fa, quando io lavoravo con altri artisti. Per anni mi sono affiancato come produttore, musicista, coautore anche ad altri. Negli ultimi anni, forse per essere stato compresso per troppo, insomma, tempo, è fiorita questa appunto produzione. C'è stata un'esplosione, diciamo, prima con i 3 album della Nave dei Folli, e poi con appunto questa cosa a nome mio. Tra l'altro colgo l'occasione per segnalare che accanto a me questa sera c'è Marco Lamberti. Ecco, salutiamo anche Marco Lamberti, che avevamo avuto modo di conoscere attraverso appunto La Nave dei Folli, i dischi proposti da Michele Gazdic. Quindi buona serata anche a te, Marco. Buonasera a tutti e grazie. Infatti sono molto lieto di avere Marco gli accanto di me, come dicevo, perché non solo mi ha accompagnato e ha adornato del suo talento i dischi della Nave dei Folli, ma mi segue anche nella proposizione live dell'imperdonabile. Poi dopo ne parliamo. Benissimo, allora direi che possiamo cominciare subito presentando il primo pezzo, tanto per far capire quella che è, diciamo, la nuova dimensione di Michele Gazdic e quella che è la continuità artistica, presentando già il primo pezzo, che per l'appunto si intitola L'imperdonabile. Imperdonabile l'amore, imperdonabile la dolcezza, imperdonabile il passo leggero, imperdonabile la grazia, imperdonabile la bellezza, imperdonabile il volo, imperdonabile il mistero. Thank you. Cristina era il deserto, Cristina era il silenzio, Cristina era la preghiera perfetta, strappata alla morte e alla vita, strappata al cadere dei petali, alle fauci della tigre che divora la bocca di chi prega. Imperdonabile la porta chiusa, imperdonabile l'icona, imperdonabile il lentissimo studio, imperdonabile morire lontani perché imperdonabile è morire, imperdonabile Cristina. Cristina era la spada, Cristina era il fiore, Cristina era il suo cuore tra i due mondi, Cristina attraversava il fuoco, Cristina oltre il bacio della fiamma, Cristina era l'attesa, Cristina era l'attesa. Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche il primo pezzo dal disco di Michele Gazic, si intitola L'Imperdonabile, è proprio da questo CD la traccia numero uno, e abbiamo Michele Gazic qui in studio con noi proprio per parlarci della sua ultima produzione. Ancora buonasera a te Michele. Buonasera. Buonasera, sono come sempre lieto di comunque tornare qua perché è un luogo, una radio in cui oltre ad ascoltare musica si può anche parlare ed approfondire ciò di cui si canta e si suona. Sì, musicalmente questo pezzo è un pezzo quasi classico, Michele, come l'hai impostato? Direi di sì, perché questo album, L'Imperdonabile, è nato anche in un momento un po' complicato della mia vita che vi narrerò. Comunque è nato con l'idea di essere un piccolo testamento musicale e letterario che riepiloga tutte le varie fasi di influenze musicali che ho attraversato nella mia vita artistica. Questo primo pezzo, ad esempio, col suo incedere solenne e con l'arrangiamento d'archi, può in un certo senso alludere allo stile intimo di Bach quando scrive appunto le passioni, per esempio. altri pezzi nell'album muovono verso mondi e reami musicali completamente diversi. Infatti poi avremo intenzione, in compagnia di Marco Lamberti, che è qua con me, di suonare anche qualcosa dal vivo, e così potrete assaggiare i diversi paesaggi musicali di questo album, che è proprio un riassunto, un bigino di Michele Gazzi. Cioè, se uno prende questo sa tutto. Un riassunto scheletrico rispetto però alla banda dei Folli, quindi molto molto scheletrico, pochi strumenti ma essenziali. Sì, sì, sì, perché l'idea era di alludere a tutti questi stili musicali con appunto pochi tratti, anche per dare maggior peso alla parola. Certo, certo. Benissimo, allora, visto che abbiamo parlato di strumenti musicali qui presenti in studio insieme ai protagonisti della serata, direi di cominciare subito con un pezzo, sempre tratto da L'Imperdonabile, questa volta quel titolo lungo lungo, lo farai dire a te, Michele. Sì, vorremmo cominciare dalla leggenda degli amanti che camminano sul filo, che anche nell'album segue L'Imperdonabile nella tracklist, ed è un brano di carattere molto molto diverso. È una tragica storia d'amore che musicalmente si caratterizza con uno stile invece che può ricordare il cantautorato francese, Brassens per esempio. Sì. E la appunto proponiamo con la mia voce, il violino che sarà pizzicato in questo caso, e la chitarra del maestro dell'anima Marco Lamberti. Benissimo, allora l'ascoltiamo, la leggenda degli amanti che camminano sul filo. Ecco qua, Michele Gazzici, per voi a Blu Radio Veneto. Ragazza francese e il suo giovane Caruso camminano sul filo in equilibrio incerto, e Caruso canta una canzone fuori moda, canta mosso dal vento. La ragazza francese ha lasciato anche il suo nome sul tavolo di casa con la sua fede nuziale. La ragazza cammina con la luna in mezzo ai denti, la notte non farà più tanto male. Dite una preghiera per i poveri amanti, dite una preghiera e poi ditela ancora. Dite una preghiera per chi corre sul filo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Preghiera per i poveri amanti, dite una preghiera e poi ditela ancora. Dite una preghiera per chi corre sul filo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Francese apre le labbra per baciare, la falce di luna cade e taglia il filo, nel bacio e nell'abbraccio cadono gli amanti, il cielo e dei violenti. Na na na na. Uh-huh. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato la prima versione live della traccia contenuta all'interno del lavoro L'Imperdonabile di Michele Gazic, Leggenda degli amanti che camminano sul filo, una grande interpretazione. E un grazie anche al collega Marco, diciamo. Sì, sì, sì, è una componente essenziale del nostro suono. Mm. E tra l'altro colgo l'occasione per segnalare che ora ha abbandonato la chitarra e sta imbracciando uno strumento che bisognerebbe vedere, cercheremo di farvelo vedere anche se appunto siete alla radio. Sì. si chiama dunque Dulcimer, ma lo farei presentare direttamente dal maestro, certo, dell'anima. Presentalo, descrivilo. Dunque, diciamo che la descriverei come una chitarra da braccio, insomma, da suonare appoggiata sulle gambe, una sorta di per rendere i colori, diciamo che ve la farei sentire, ecco, questo sì. È il suono praticamente che produce. È uno strumento molto ritmico e diciamo mi ha molto incuriosito, infatti con Michele abbiamo deciso di sperimentare queste sonorità mischiate al violino e vedremo cosa ne esce fuori, ecco. Tra l'altro è uno strumento molto, molto legato al folk, certo, certo. Io l'avevo in effetti conosciuto tanti anni fa quando suonavo con Mark Olson e è tipico del folk delle Appalachian Mountains, che sono le montagne vicino alla costa est dell'America, vicino a Woodstock in sostanza, ed è proprio tipico del folk, di solito accoppiato al violino, fa questo sdran di base che sta molto bene di solito col violino. E, per descriverlo comunque una sorta di comunque parallelepipedo che sì. Leggermente si restringe nella parte insomma centrale. Vabbè. Ecco. E comunque devi sapere, Michele, adesso stiamo documentando anche il tutto quello che avviene in questa serata tramite delle foto, anzi ringraziamo per l'occasione Alberto Prisco che le sta scattando e poi naturalmente all'interno della nostra pagina su Facebook con il collegamento al nostro sito ufficiale bluradioveneto.it ci sarà la possibilità anche di vedere qualche immagine di quello che sta succedendo. Infatti in questa faremo serata una galleria degli strumenti presenti. Una galleria, certo. A proposito di questo strumento, Michele, a me ricorda anche un grande che se n'è andato recentemente, che è Bertie Ash, quindi Pentangle. Esatto, esatto, esatto. È legatissimo al folk inglese, certo, anche. Certo. Bertie Ash, tra l'altro, gli ha avuto la sfortuna di comunque mancare quasi comunque contemporaneamente a Steve Jobs. Per esatto. Cui il problema è che nessuno pressoché ne ha dato appunto la notizia, pur essendo, come diceva Neil Young, il Jimi Hendrix della chitarra acustica, certo. Quindi non so se mi spiego. Sì, ecco, sì, uno sì, dei certo. Più grandi, genio assoluto. Genio assoluto, quindi ricordiamolo anche. Benissimo. Allora adesso ancora uno spazio live, visto che c'è Marco con il suo Dulcimer. Allora cosa ci proponi, Michele? Allora, volevamo proporre a questo punto una filastrocca misterica, misteriosa, che parla di cose che si trasformano in altre. Essendo totalmente live, controllerò l'accordatura del mio violino con il Dulcimer del maestro, dopodiché ve la suoniamo. Benissimo. La in sol. Stiamo, come vedete, accordandoci. Bene, siamo pronti. L'occhio diventa fiamma, la fiamma diventa sole. Il sole diventa brace, la brace diventa attesa, l'attesa diventa rosa, la rosa diventa cielo, il cielo diventa mare, il mare diventa sabbia, la sabbia ritorna vetro, il vetro ritorna stella, la stella ritorna luce, la luce ritorna notte. ghiaccio. Il ghiaccio diventa morte. La morte diventa niente. Il niente diventa terra. La terra diventa vino. Il vino diventa rabbia. La rabbia ritorna pianto. Il pianto ritorna acqua. L'acqua ritorna fiume. Il fiume ritorna pioggia. La pioggia diventa figlio, il figlio diventa volo, il volo diventa soffio, il soffio diventa canto, il canto diventa cuore, il cuore diventa sangue, il sangue diventa vita, la vita diventa attesa, l'attesa ritorna brace, la brace ritorna sole, il sole ritorna fiamma, la fiamma ritorna occhio. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa fiaba del sole, del ghiaccio e dell'attesa, una filastrocca davvero particolare cantata da Michele Gazic con la collaborazione del maestro dell'anima, come lo chiami tu. Esatto, lo chiamo maestro dell'anima perché nelle mie composizioni, ma in generale quando suona, riesce sempre a valorizzare gli aspetti più spirituali, intimi e delicati, da qui questo nome che rappresenta anche una sua particolare ricerca spirituale. Allora, tra le altre cose, nel disco c'è un libricino molto, molto ben fatto, direi, perché hai i testi delle canzoni sia in italiano, quindi la lingua con cui canti, sia anche tradotte mirabilmente in inglese per fare capire ai più di cosa stai parlando all'interno del disco. Infatti già con La Nave dei Folli è capitato di andare in tour in altri paesi europei e quindi era saggio che comunque tutti potessero comprendere i testi, perché vi dicevo che per me la parola è importante. Sono stato assistito nell'ultimare e perfezionare questa traduzione, tra l'altro, da un maestro, Erik Andersen, che è un grande cantautore, come vi dissi forse la volta scorsa. Sì. Lo rispetto a partire dal fatto che ha fatto il suo primo album nel 65, 4 anni prima che io nascessi, quindi insomma, basterebbe questo, no? È verissimo. E poi ha avuto una carriera così significativa. Comunque Erik mi ha dato una mano nelle comunque traduzioni, e anzi si è preso significative libertà. Inviterei conseguentemente a gustare anche la versione Andersen di queste canzoni. Benissimo, a proposito di questo pezzo, Fiaba del Sole, del Ghiaccio, dell'Attesa, tu hai citato una vecchia tournée che hai fatto con Michelle Shocket nel 92, sì, 1992 negli Stati Uniti, sì, l'Arkansas Tavern. Sì, l'avevo proprio citata nella presentazione dell'album, nella cartella stampa, perché come vi dicevo, in quest'opera che riassumo un po' tutto quello che è stato il mio percorso, volevo anche ricordare uno stile musicale che era anche di Michelle quando avevamo fatto questo tour nel 92, ormai molti anni fa. C'erano molti fiddle tunes, cioè molte insomma canzoni che possono comunque richiamare le parti appunto strumentali di questa, con questi giri di violino che ritornano continuamente su di sé in maniera inesorabile. È tipico dei fiddle tunes e della musica da ballo americana. Esattamente. Quindi violino in questa dimensione. Sì, sì, e mi piaceva che fosse... Perché il violino ha sempre questa sua natura particolare, può essere lo strumento del ballo, lo strumento della speculazione intellettuale, lo strumento dello zingaro, è giusto tirare fuori tutto, insomma, tutte le potenzialità. Può essere violino o può essere fiddle, come, certo, lo chiamano in America. In America. Ecco. Bene, quindi un violino a 360 gradi per offrire sempre sonorità diverse, non solamente legate... diciamo al classico come sono abituati a sentire gli ascoltatori, ma anche aggregarlo ad altre sonorità tra i quali folk o altri generi. Sì, è proprio un riassunto di tutti i vari stili che ho comunque attraversato nella mia vita e che mi appartengono profondamente, insomma. E quindi è per quello che, come vi dicevo prima, questo imperdonabile è un po' il bignami della mia musica. Della tua musica. Poi stasera è stato impreziosito dal Dulcimer di Marco. Esatto, del esatto, Marco. Esatto. Non a caso, perché il Dulcimer è per l'appunto legato a tutta questa tradizione, certo, folk. Benissimo, allora ci ascoltiamo un altro pezzo dall'album L'imperdonabile di Michele Gazic. Ascoltiamo un'altra canzone molto particolare che poi torneremo a commentare insieme, si intitola Il latte nero dell'alba, l'ascoltiamo e poi torniamo a parlarne. Beviamo il latte nero dell'alba, la notte beviamo il latte nero dell'alba, la notte beviamo il latte nero dell'alba, la notte beviamo il latte nero dell'alba. Mi stringe e spegni il mio dolore. Radio Sera. E ci siamo ascoltati anche questa traccia dal disco L'Imperdonabile, protagonista Michele Gazic, che abbiamo ospite con noi in questa serata all'interno della programmazione di Blu Radio Veneto, appunto nominata Blu Radio Sera. Ancora buonasera Michele Gazic. Il latte nero dell'alba, una storia triste che hai tradotto in musica. Da dove nasce questa storia, Michele? Ma nasce anche in questo caso, come la prima canzone che abbiamo ascoltato questa sera, da una mia passione letteraria, un mio grande amore, che si chiama Paul Celan, che è un poeta del Novecento. Io lo ritengo uno dei massimi maestri, un altro imperdonabile, tornando a quella definizione che dicevamo prima. È nato in Romania, morto a Parigi, scriveva in tedesco e come tanti artisti ha cambiato tante patrie senza mai trovarne una. I suoi genitori morirono in campo di concentramento mentre lui si salvò dalla cattura. E la memoria dello sterminio dei suoi genitori e del popolo ebraico, la memoria delle violenze e della guerra lo ossessionò a tal punto che infine a 50 anni, nel 70, si suicidò buttandosi nella Senna dal Pont Mirabeau a Parigi. Lui scrisse una poesia in cui parlava del latte nero dell'alba, che era un'espressione misteriosa, ci sono state tante interpretazioni, ma vuole alludere alla situazione contro natura nella quale si trovavano gli ebrei a quel punto. Il latte nero dell'alba è quello che bevevano ogni mattina quelli che sapevano di dover morire, e il latte nero dell'alba lo beve lui prima di sprofondare nella terribile pace della morte, nel grande cuore nero delle acque del fiume. ho fatto questa lunga presentazione perché è una canzone, forse quella che amo di più fra appunto tutte le canzoni che ho composto. E posso anzi annunciare una cosa in anteprima, che l'anno prossimo andremo a suonarla proprio, dobbiamo ancora elaborare la cosa, in un luogo tragicamente legato a tutto ciò, cioè appunto ad Auschwitz. Andremo a suonarla, l'anno scorso era stato Monio Vadia, mi pare, e ogni anno viene selezionato un artista italiano nell'ambito di questa cosa. Quest'anno siamo appunto stati noi per appunto questa canzone così legata alla tematica. Io l'avevo scritta in realtà all'inizio di quest'anno appunto per la giornata della memoria, che non volevo che fosse la solita giornata in cui con un pensierino ci si ripulisce la coscienza, ma volevo che fosse qualcosa di più forte e significativo. E ci sei riuscito, perché anche questa canzone, appunto lo dicevi tu, è stata anche scelta per questa... Sì, è stato un riconoscimento importante, ma è estremamente significativo recarsi proprio in questo luogo a suonarla, infatti sarà molto emozionante. Tu hai detto anche che questa canzone secondo te è il cardine del disco in tutti i sensi praticamente. Sì, decisamente insomma, perché musicalmente si svolge in maniera molto particolare, ci sono sezioni diverse in questa canzone per narrare le varie fasi della vita di Zeran, il tutto incorniciato da questa frase la notte beviamo il latte nero dell'alba, che è una specie di mantra che ritorna continuamente. Poi c'è la parte centrale della sua vita in cui cercò di combattere tutto questo dolore, cercando di scrivere, cicatrizzare l'odio, come si dice nella canzone. Operazione che grazie alla quale ha retto per un po' di anni, ma poi è finito come tanti reduci, come ad esempio Primo Levi, no? Certo. È una storia molto simile. A un certo punto è stato come sopraffatto dalla memoria e dal dolore. Quindi parliamo di Primo Levi, Se questo è un uomo, e La tregua, che ha una letteratura ancora viva, ancora molto richiesto quel libro, ancora molto toccante rileggerlo. Sì, sì, e anche comunque Primo Levi, per questo che lo citavo, gli ha avuto un percorso esistenziale simile, che alla fine anziano si tolse la vita anche lui a Torino. Certo, certo, è proprio così. Benissimo, adesso ancora uno spazio live per ripercorrere nel tempo quella che è stata una delle tappe della trilogia di Michele Gazic, perché qualche tempo fa Michele, in compagnia della Nave dei Folli, ha dato vita a tre dischi, facevano parte appunto di questa trilogia. Il primo disco era Le 10 canzoni di Michele Gazic, era una copertina bianca per identificarlo. Poi ancora a seguire, ancora Michele Gazic e La Nave dei Folli con 10 esercizi per volare. E alla fine nel 2011 Il giorno che la rosa fiorì, copertina rossa. E prendiamo un pezzo dall'album, dal secondo che abbiamo citato, quindi I 10 esercizi per volare, con quello che si intitola L'angelo ucciso, perché è tutto un CD che parla di angeli. Esatto, sì, sì. Sono una serie di proprio esercizi per volare, e come tutti gli esercizi, se praticati con regolarità, danno poi abitualmente il loro frutto, quindi consiglierei a tutti di praticarli. Ci sono vari angeli, angeli consolanti, angeli inquietanti. C'è anche una canzone dedicata anche in questo caso a un poeta, e mi piaceva fare questa comunque galleria di poeti oggi, ed è Pasolini, che gli è stato la coscienza dell'Italia per molto tempo. Anche lui, come tanti imperdonabili, è finito tragicamente, ma volevo comunque concentrarmi proprio su quello che è la sua poetica, perché di Pasolini purtroppo si parla principalmente si parla della sua misteriosa morte o della sua sessualità, e non si parla della sua opera, che invece andrebbe letta e riletta, perché piangeva alla fine di un'Italia contadina, religiosa, insieme religiosa e pagana, a favore di questa Italia omologata culturalmente e senza Dio, l'Italia nella quale ci troviamo a vivere oggi. Bene, allora ci ascoltiamo L'angelo ucciso. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo con Michele Gazic per la presentazione del suo Imperdonabile, però facciamo un passo indietro, andiamo ai 10 esercizi per volare. Mm. scrivevi mentre l'Italia moriva. Tu pregavi il Cristo dei contadini. E la terra era bianca, era cotta, bruciata dal sole. Il tuo sangue, il sudario, la riva del mare. Poeta morto, ti sento urlare dentro il silenzio di chi ti ha ucciso, il silenzio dei senza viso, il silenzio dei senza Dio che pregano in banca, che pregano in chiesa. La tua voce da vivo era dolce e sottile. Il belato d'agnello di chi non resiste ai violenti. C'è chi prova a infamarti, prova a dimenticare la tua voce da morto, è un grido che non puoi fermare. Poeta morto, ti sento urlare dentro il silenzio di chi ti ha ucciso, il silenzio dei senza viso, il silenzio dei senza Dio che pregano in banca, che pregano in chiesa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati questo pezzo dal vivo con Michele Gazic e il maestro Marco Lombardi per questo L'angelo ucciso, 10 esercizi per volare, un album di qualche tempo fa. E da ricordare la particolarità di tutti quelli che sono i libricini contenuti all'interno del CD è che ci sono, oltre alle, diciamo, ai testi delle canzoni tradotte anche in inglese, anche delle note particolari ai testi, tanto per dare all'ascoltatore la possibilità di interpretare al meglio quella che è la musicalità e l'intenzione di Michele Gazic. Certamente sì. Tra l'altro volevo anche fare una correzione, perché per una volta non è stato sbagliato il mio cognome, perché Gazze ci sai è un po' difficile, ma appunto è stato sbagliato il suo, Lamberti. Nessun problema, è stato regionalizzato, quindi va bene. Per cui chiedo umilmente scusa. Sì, sì, sì. Tra l'altro lui è piemontese, tra l'altro, volevo appunto chiarire. Anche, se adesso, anche se abita a Brescia adesso. No, lui è piemontese proprio. Vive appunto in Piemonte, come potrebbe chiarirvi appunto personalmente, in un ameno paese vicino appunto a Cuneo. Ah, perfetto, ottimo. Ritornando al discorso che ha detto Flavio della nave dei folli, le critiche sono state entusiastiche su questo tuo progetto e il segreto di questo pezzo rimane immutato. A maggio hai fatto sentire qualcosa e la magia è rimasta qua in questo momento, non è cambiato nulla, Michele. Ma sono molto lieto perché cerco sempre di creare un raccoglimento e un ascolto quando si suona. Per me è sempre come se fosse la prima e l'ultima volta quando suono, poi sai, nella vita non si sa mai, quindi nel dubbio tanto vale cercare appunto di comunicare. È vero, certo. Sì, è vero ciò che dicevi tu appunto riguardo ai libretti che sono ricchi di annotazioni, note, eccetera. È una cosa che mi piace perché alla fine ha portato i nostri acquirenti a comprarli effettivamente questi CD, perché è un prodotto più ricco anche, che ricorda un po' un libro accanto a un CD e non è un CD tipo di quelli con la confezione di plastica e il foglietto dentro che sono un'istigazione al download, no? Certo, è vero, assolutamente sì. Invece veramente la confezione che parla da sola e poi naturalmente aprendo il CD si scopre che dietro c'è un'opera veramente davvero davvero importante, che porta anche a prendere questo CD, ad essere incuriositi a quello che viene nascosto dentro, e poi insomma l'artista si conosce, è conosciuto non solamente come autore di brani propri ma anche come parecchie collaborazioni importanti. Sì, abbiamo citato i miei amici più cari, insomma, che, come Eric Andersen, Michel Schacht, abbiamo citato prima, certo. Mark Olson, e sono tutte persone con cui ho attraversato, come con il mio caro amico Marco oggi, varie fasi della mia vita. Ad esempio con l'altro Marco, cioè Mark Olson, abbiamo passato un biennio incredibile nel 2007-2008, attraversando per 3 volte l'America da un capo all'altro. Abbiamo fatto 330 concerti in 1 anno e mezzo, insomma, che è stata un'esperienza pazzesca. Però è quello che mi ha spinto a riappropriarmi ancora di più di quello che deve essere la caratteristica del musicista, cioè suonare, cioè fare questo per gli altri più che può, insomma. Dicevi quando sei venuto a maggio che suonavi in qualsiasi posto, che esatto, in supermercati, in club, eccetera. Esatto, con Mark lo spirito era questo, si passava tipo dalla grande sala di New York, abbiamo suonato alla Bowery Ballroom a New York, oppure il Troubadour, che è un mitico club a Los Angeles, e si passava invece tipo al luogo con tipo il piccolissimo club con tipo 6 acquirenti, 2 magari dei quali con la pistola in tasca, anche visto che siamo in America. E quindi ognuno arrivava con quello che aveva, uno con la pistola, l'altro col violino, insomma, ecco. Ci si metteva d'accordo in qualche maniera. Ed era comunque sconcertante questa alternanza, tipo sì. Il luogo elegantissimo, migliaia di persone, signore in pelliccia, la sera dopo pistoleri. Quindi, vabbè, allora, armato di violino assieme a Marco Lamberti, armato invece di chitarra, diamo spazio a un'altra canzone live, sempre tratto da quello che è l'album azzurro, definiamolo così, di Michele Gazic, 10 esercizi per volare, e con quella che è la traccia che è la seconda parte del CD, perché in questo caso hai anche, come dire, sezionato il CD presentando una prima parte e una seconda parte, quasi sì. Ci fosse tempo per un intervallo di riflessione in questo caso. Sì, è pensato sicuramente, come dici tu, in quel senso. Poi ho sempre avuto degli comunque auspici che onestamente non so se si compiranno mai, però forse questa volta sì, di stampare questi CD in vinile. È un grande ritorno. E così sono già in sostanza impostati come lato 1 e lato 2, come appunto durate e appunto disposizione dei pezzi. Quindi, perché non ci ho pensato prima? Vabbè, fantastico. Allora, un altro pezzo appunto dal vivo, tratto da uno degli album precedenti di Michele Gazic assieme alla Nave dei Folli, si intitola Chi vede l'angelo? Sì, è un invito, qualora lo si vedesse, a non fuggire. Thank you. porta è aperta, un uomo entra. La porta è chiusa, l'uomo ritorna. La porta è aperta fino al mattino. La porta è chiusa dopo il tramonto. Gli alberi vanno alla terra dei rami. Il cielo torna con i raggi del sole. Gli alberi vanno, non hanno radici. Il cielo torna se tu sai volare. Chi vede l'angelo non deve scappare. Chi vede l'angelo va dal pescatore. Chi vede l'angelo in riva al mare. Tutta la notte gioca all'amore. La pietra sale, diventa leggera. La pietra scende, ritorna a pesare. La pietra sale, va in cattedrale. La pietra canta dal fondo del mare. La rosa dorme sopra le spine. La luna veglia davanti alla notte. La rosa dorme, trattiene il profumo. La luna veglia, profuma d'estate. Chi vede l'angelo non deve scappare. Chi vede l'angelo va dal pescatore. Chi vede l'angelo in riva al mare, in braccio alla notte, incontra la morte. Il vento porta le nuvole a casa. Il vento gioca, solleva la sabbia. Il vento porta papaveri e nozze. Il vento gioca con chi sa giocare. I fiori aperti a bere la luce. La luna e il sole insieme nel cielo. I fiori aperti a cantare canzoni. La luna e il sole fanno capriole. Chi vede l'angelo non deve scappare. Chi vede l'angelo va dal pescatore. Chi vede l'angelo in riva al mare. Tutta la notte gioca all'amore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato un altro bel pezzo da 10 esercizi per volare. Chi vede l'angelo era un punto interrogativo ed era un invito a non scappare una volta intravisto, perché forse può anche aiutare. Decisamente, poi può aiutare e può inquietare, può essere anche una lotta. C'è una grande tradizione di lotte con l'angelo, no? Nella Bibbia, e quindi è una figura che può accompagnarci ed essere tramite tra i due mondi. Ecco, la voce che stanno ascoltando gli ascoltatori, lo ricordo per chi si fosse messo in frequenza solo adesso, è quella di Michele Gazic, che ci sta allietando in questa serata con la presentazione del suo ultimo CD che si intitola L'Imperdonabile. E tra le altre cose arrivano delle critiche assolutamente positive, delle recensioni molto, molto vive per questo CD, e soprattutto ricordiamo un articolo di Gem dove un recensore dava direttamente 4 stelle al tuo lavoro, Michele. Beh, sì, l'ho visto poi anch'io in questi giorni, ne sono ovviamente particolarmente lieto. Poi Jam sicuramente può dare maggiore ascolto a quest'opera, una rivista tra l'altro principalmente centrata sul rock, ad esempio in copertina ci sono Lou Reed e Metallica, sì, su quel certo, numero, no? Con nuovo disco, sì, ecco, esatto. Però mi fa piacere perché è talmente particolare, credo, ciò appunto che ho comunque prodotto, che può rivolgersi felicemente a questo pubblico anche. Sì, perché tu hai abbandonato il progetto, momentaneamente il progetto della Nave dei Folli, per indirizzarti in un progetto assolutamente, decisamente solista al 100%. Esatto, cioè in realtà la nave non è che sia esattamente nel porto, perché mi farebbe comunque piacere procedere in due direzioni diverse, caratterizzando la Nave dei Folli con tutti gli altri artisti che ne fanno parte, oltre a Marco Lamberti che è qui con me anche oggi, ci sono Anna Petracca e Fabrizio Carletto, e con costoro vorrei comunque procedere in un repertorio più folk rock, mentre la tematica più interiore, mistica e legata alla poesia, mi piacerebbe trattarla autonomamente, insomma, con dei concerti anche su scala più ridotta per garantire agli ascoltatori un ascolto attento e gioioso, insomma. Cioè, tu vuoi suonare giustamente una scala più ridotta, locali piccoli, perché devono essere più vicini gli ascoltatori, devono capire di più, infatti, interagire con te. Infatti abbiamo suonato di recente anche poi a Padova in una situazione del genere, abbiamo suonato a Brescia, Milano, altri poi ne faremo, ma l'idea è veramente di risuscitare o il salotto letterario o il folk club, come si usava negli anni 60, prima che l'industria culturale si appropriasse dei cantautori, e c'era la possibilità di ascoltarli proprio, come dire, in cerchio attorno a chi aveva qualcosa da dire, e mi piaceva risuscitare tutto questo. Poi l'atmosfera che stai proponendo anche in questa serata è proprio da ascoltatori che stanno tutti intorno ad una radio ad ascoltare quello che sta avvenendo. Ma sì, poi mi piace anche in tempi in cui si urla troppo bisbigliare le canzoni, sussurrarle, è proprio un invito a dare peso alla parola, ma non urlando, semplicemente dicendo la parola stessa. E dare peso alla parola, perché per la prima volta tu canti in tutti i pezzi. Sì, mi sono deciso a farlo attualmente, anche su appunto disco l'avevo comunque fatto occasionalmente, ma non l'avevo fatto per un intero album ancora. Certo. E ciò mi ha messo in una situazione paradossale, insomma, dopo aver fatto più di non so quanti dischi, 40, una quarantina di 40 dischi, e qualcosa, sì. Mi ha messo nella situazione di esordire ultra quarantenne, il che poi mi fa comunque piacere, no? E quindi è una novità significativa. Queste canzoni, essendo così interiori, nate anche in un periodo complicato della mia vita, in cui ho frequentato il terzo luogo tra la vita e la morte, ma ho fatto felicemente ritorno, dovevo quindi per forza cantarle io, insomma. Siamo qua a parlarne anche di assolutamente positivi. Infatti. In questo. Va bene, allora ricordiamo anche per carpire qualcosa di più da questo album, oltre a questa piacevole intervista, anche si può accedere a un sito internet. Certo, c'è sia un sito internet che è michelegazic.it, poi c'è ovviamente una pagina Facebook dove mi si può appunto contattare appunto facilmente. Poi inoltre aggiungerò anche questo, perché io amo non essere l'artista nella torre d'avorio irraggiungibile. La mia mail è michelegazic@gmail.com. Chiunque voglia dirmi qualcosa lo può fare, io ho sempre risposto a tutti. Benissimo, l'avevamo ricordato anche l'altra volta che Michele è molto ad altezza ascoltatore, nel senso che non si mette nel gradino personale a dire io sono l'artista, perché Michele Gazzic dice: senza il pubblico io non sarei l'artista. Esatto, era proprio una considerazione che stavamo appunto facendo con Marco qualche sera fa, in cui eravamo in uno di questi piccoli posti a suonare poi a Milano e abbiamo impostato l'illuminazione anche in modo piuttosto di appunto particolare, cioè abbiamo illuminato di meno noi e di più il pubblico, così siamo riusciti a vedere bene tutti in faccia mentre suonavamo. Certo, ma questa impostazione è molto americana, molto vicina alle tematiche, come giustamente tu hai ricordato, Mark Olson e similari artisti praticamente. Ah sì, mi piace comunque che ci sia veramente una dimensione di effettivo ascolto. Certo, certo. Bene, allora adesso proseguiamo con l'ascolto del nuovo lavoro di Michele Gazzic dal titolo L'Imperdonabile, con un'altra traccia dal CD, quindi la traccia numero 3, che si intitola Canzone di chi non sa tornare, e poi torneremo invece noi per commentarla insieme. Già lontano, rendimi se riesci mentre cado dal tuo cielo, rendimi se riesci, sono in fondo al mare, canto la canzone di chi non sa tornare, canto la canzone, batto il tempo con le dita, canto la canzone che non chiude la ferita, canto la canzone che è più lunga della vita, brucio le parole, brucio le mie ali, brucio anche i ricordi, lasciami scappare, non so come tornare. Se riesci mentre sciolgo la mia treccia, prendimi se riesci mentre cambio un'altra faccia, prendimi se riesci prima che finisca il mondo, prendimi se riesci mentre ballo il ballo tondo, canto la canzone mentre provo i tuoi vestiti, canto la canzone c'eravamo tanto amati, canto la canzone che è più lunga della vita, brucio le parole, brucio le mie ali, brucio anche i ricordi, lasciami scappare, non so come tornare. Tu che non mi avevi accolto, prendimi se riesci mentre cado un'altra volta, prendimi se riesci, spalanca il tuo mar rosso, canto la canzone, ce l'ho cucita addosso, canto la canzone, ho accettato un altro invito, canto la canzone, forse non ti ho mai amato, canto la canzone che è più lunga della vita, brucio le parole, brucio le mie ali, brucio anche i ricordi, lasciami scappare, non so come tornare. Lo sai bene che mi manchi, prendimi se riesci, i miei cavalli sono stanchi, prendimi se riesci, non riesco più a scappare, canto la canzone di chi non sa tornare, canto la canzone del gitano e del profeta, canto la canzone dalla melodia infinita, canto la canzone che è più lunga della vita, brucio le parole, brucio le mie ali, brucio anche i ricordi, lasciami scappare, non so come tornare. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora con Blu Radio Sera. Ancora buona serata a tutti da Flavio Bilato. Assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Stiamo piacevolmente conversando con Michele Gazzic per la presentazione di questo suo L'Imperdonabile. Tra le altre cose, ricordiamo che questo intero CD è stato frutto di una lavorazione proprio molto intima, dove c'era solo Michele Gazzic con Michele Gazzic e Michele Gazzic. Esatto. è nato in questo modo perché è nato appunto in questo momento particolare della mia vita in cui avevo desiderio di registrare e riflettere in maniera molto rituale quasi. E, quando ho fatto sentire queste canzoni ai vari membri anche della Nave dei Folli, che è la formazione con la quale io collaboro, è risultato chiaro che dovevo in questo caso cantarmele io, perché sono veramente interiori e parlano proprio di questo periodo travagliato. La canzone che abbiamo ascoltato, la canzone di Chi non sa tornare, ha un suono particolarissimo di violino in realtà, perché è un violino accordato diversamente, ma che si ispira a quello strumento folk sardo che si chiama launeddas. Certo. Ho incontrato un maestro di questo strumento che si chiama Luigi Lai. Sono praticamente tre canne che ci si mette in bocca, una fa un bordone, cioè una nota lunga, e con le altre due si suonano delle melodie. È un suono particolarissimo e che ho cercato di appunto evocare con il violino, come avete sentito nella canzone precedente. Avrei molte cose da dirvi sulle comunque launeddas e sul maestro Lai. Basti dire che è un personaggio che suona in maniera sempre più perfetta più appunto passano gli anni, però è anche sciamano. Infatti, dopo avermi fatto discorsi estremamente rigorosi e matematici sull'accordatura, mi racconta: ma le mie canne per le launeddas vado io a tagliarmele, ma solo nelle notti di luna piena. Bene. Quindi vuol dire che è uno strumento che si deteriora facilmente, questo launeddas. Sì, perché sono comunque strumenti fatti proprio con le canne che crescono a bordo dei laghi, degli stagni, no? E quindi è uno strumento realizzato personalmente dal maestro che suona come una, insomma, cornamusa. Però a differenza di cornamuse e zampogne, e questa è la cosa incredibile, non ha una sacca in cui appunto c'è l'aria, ma l'aria gira direttamente dal naso alle launeddas con una sorta di respirazione circolare, una cosa che consiglierei di andare ad ascoltare una volta. Benissimo, allora incuriosiamo anche i nostri ascoltatori e andiamo a fare una ricerca, visto che internet c'è sempre molto vicino, di cosa sono queste launeddas, e poi prossimamente anche in Sardegna, non solamente per il mare ma anche per ascoltare della sana musica sarda. Tu hai detto che praticamente questo disco l'hai inciso praticamente da solo, alla Mike Oldfield, possiamo dire così. Sì. L'intervento di Marco dal vivo come si è plasmato, come è venuto fuori? Allora, vi dicevo che l'ho inciso da solo perché desideravo avere veramente questa ritualità nella registrazione, sovraincidendo piano, archi e la mia voce. Tra l'altro è tutto avvenuto in un grande silenzio, nei giorni intorno a Ferragosto, che consiglierei a tutti di comunque incidere intorno a Ferragosto, perché è veramente tranquillo, come noto, stare in città a lavorare in quei giorni. Sì, si sa che in Italia è uno dei pochi paesi nel mondo dove Ferragosto è proprio tranquillo, sì, perché tutti sono ai bordi della nostra ben amata Italia a godersi il sole. Invece c'è qualcuno che decide di stare in città perché in città in quel momento si sta bene. Decisamente, infatti ho registrato in quei giorni in maniera molto lenta e rituale e silenziosa soprattutto, e poi quando mi sono trovato a proporre il disco live, cosa che è avvenuta recentemente e che andrà avanti in una sorta di never ending tour, ovviamente non essendo in grado di comunque suonare tre cose contemporaneamente come nessuno credo, ho pensato di comunque affiancarmi ad un musicista, e ovviamente è stato Marco Lamberti, perché mi è stato accanto nell'esperienza della Nave dei Folli, e quindi è anni ormai che suoniamo assieme e diciamo che in maniera fraterna siamo in grado di leggere i nostri pensieri. Abbiamo sentito poco la voce di Marco Lamberti, vorremmo sentirla soprattutto per come ci si trova a lavorare con Michele Gazic. Ma con Michele, come appunto ha ribadito lui, c'è un discorso innanzitutto di amicizia, quindi c'è un rapporto umano fraterno praticamente, e questo non può che riversarsi in maniera assolutamente positiva nella musica, perché come si sa nella musica ci si espone con una nudità assoluta davanti alla gente e viene percepito comunque qualunque tipo di sentimento, di conseguenza si crea sempre una sorta di intimità che a monte c'è già come un discorso umano, viene soltanto trasmessa attraverso la musica, ed io ovviamente sono lusingato di questa collaborazione. Oltre che essere amici, appunto, c'è anche una forte comunicativa musicale tra di noi, quindi insomma. Quindi sei entrato nelle corde giuste per questo progetto un po' particolare. Assolutamente, anche perché con, almeno mi auguro con una certa umiltà, ho cercato di anche farmi da interprete per le frequenze musicali che a lui mancavano strutturalmente nella musica, aggiungendo le chitarre e alcuni strumenti come il dulcimer e anche il bouzouki addirittura. Quindi abbiamo insieme anche creato questa sorta di miscellanea musicale un po' bizzarra, se si vuol dire, ma anche credo assolutamente originale. Certo, ecco. Certo. Bene, e quindi ricordiamo che Marco Lamberti fa parte anche di quello che è il gruppo nominato La Nave dei Folli. Abbiamo già avuto modo di spiegare il perché di questo nome, vogliamo ricordarlo anche questa sera. Michele, come mai è nata questa Nave dei Folli, che molti ricordano anche come un bel dipinto grande, anche un po'... felice confusione, si può dire. Esatto, cioè, le navi dei folli sono nel nostro, insomma, immaginario, cioè il meraviglioso dipinto di Bosch che appunto rappresenta queste navi di folli, che in effetti sono effettivamente esistite e sono stati i primissimi manicomi della storia, in cui i folli o le persone indesiderate al vivere civile venivano imbarcati su, dobbiamo immaginarceli in epoca umanistica e rinascimentale, imbarcati su queste navi sui fiumi dell'Europa da una città all'altra. Mi piaceva e mi è piaciuto scegliere questo nome anche come emblema della condizione dell'artista, che tante volte viene, come dire, escluso dalla società civile e messo in situazioni particolari. Penso alla gabbia di Ezra Pound o a tante altre situazioni analoghe, che so, fino a Torquato Tasso, a Mandelstam. Quanti sono i poeti che hanno vissuto delle vite imperdonabili e imperdonate. Quindi dalla Nave dei Folli si passa brevemente e follemente anche verso quello che è il titolo del tuo CD. Abbiamo sgranellato prima il perché si chiama L'Imperdonabile. Esatto, sì. E, tra l'altro, con il minimalismo che lo comunque contraddistingue, Marco Lamberti non ha sufficientemente sottolineato la sua abilità di comunque polistrumentista effettivamente, perché ha sgranato una serie di comunque strumenti. Marco è in grado di comunque suonare chitarre, bouzouki, dulcimer, pianoforte anche, che non ha menzionato, quindi è veramente un musicista in grado di fare un'orchestra da solo volendo. Benissimo, una cosa che si doveva sentire e sapere assolutamente. Abbiamo spazio per un altro brano eseguito dal vivo in questa serata, sempre con Michele Gazzic assieme a Marco Lamberti. Questa volta tocca alla traccia che nell'Imperdonabile al numero 8, questa sera la facciamo dal vivo, si intitola Lacrimosa. Esatto. Parla di lacrime, per l'appunto, lacrime che, amici ascoltatori, che io non vivo come qualcosa di male. Le lacrime sono acqua che brucia, acqua dal cuore, sono una sorta di sorgente tra i due mondi. Le tue lacrime, acqua di mare sul viso. Le tue lacrime, acqua che brucia, acqua dal cuore. Le tue lacrime, scale d'acqua, acqua di paradiso. Le tue lacrime, gocce di luce, acqua di sole. Le tue lacrime, lenti per vedere le cose normali. Le tue lacrime, specchi magici, riflettono altri sguardi. Le tue lacrime, lenti sacre per sacri cannocchiali. Le tue lacrime, noci di luce, mandorle di pace. Lacrimosa, dies illa, quare surget ex favilla, judicandus homo reus. Lacrimosa dies illa. Lacrimosa dies illa. Le tue lacrime alle porte di vita e morte. Le tue lacrime sorgente tra i due mondi. Le tue lacrime velo, fumo di candela. Le tue lacrime nuovo inizio, antica attesa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questa melodia così forte. Si intitola Lacrimosa, testo e musica di Michele Gazic. E tra altre cose, tra le particolarità di queste musiche, di queste canzoni, è che c'è sempre scritto la data dove vengono concepite, in un certo senso, le canzoni di Michele Gazic. E questo non è successo solamente su L'Imperdonabile, ma anche su altri album. Michele, lo segnalo sempre, perché è così anche una sorta di diario interiore, e mi ricordo in quali circostanze, in quali città, in quali stati ero quando ho scritto delle cose. Tra l'altro mi sono dimenticato di appunto segnalare una cosa di un certo peso al riguardo, che una canzone, tra l'altro, che abbiamo suonato prima, quella Fiaba del sole, del ghiaccio e dell'attesa, quella con il Dulcimer, sì, è stata parzialmente composta qua, intendo dire proprio in questo studio, su questo tavolo. Ecco, mentre si aspettava la diretta del 31 maggio. Esatto. Allora, invece di provare lo strumento, hai provato una melodia nuova. Infatti, perché se si osserva, c'è proprio nel libretto la data Padova, appunto, sì, 31 maggio, e effettivamente io ero arrivato in anticipo, voi eravate riuniti per qualche motivo, esatto. Allora io gli ho chiesto: scusate, se c'è poi un tavolo io magari mi metto lì. Ecco, e è stata quella circostanza, l'occasione, come direbbe appunto Montale, per appunto inaspettatamente scrivere. Quindi io in realtà mi ero messo su questo tavolo a prendere gli appunti per la diretta, per quello che mi sarebbe piaciuto dire, trovandomi il quaderno aperto, ho ripreso un vecchio appunto e ho cominciato a scrivere quella canzone. E quindi siamo veramente onorati di essere stati citati, ci meritiamo anche una dedica all'interno del CD. Sul tavolo stesso, sulla porzione del tavolo in cui è scritto. Poi dopo, insomma, plastificheremo il tavolo. Ecco, qui ha composto Michele Gazic, diciamo così. Benissimo, no, ci ha fatto veramente un grande onore sapere che appunto è nata proprio nei nostri studi, non solo, poi è stata completata anche in quel di Torino e a Garniano, in quel di Brescia. È una incedere, come tu giustamente hai scritto, nobilmente liturgico, questo pezzo, Michele. Il pezzo ha sicuramente questo incedere tipo preghiera, sì, insomma. Una preghiera, esatto. Infatti incorpora anche alcune parole in latino che fanno il Lacrimosa, proprio, che è una sezione del Requiem per i defunti, certo. Cioè il famoso Lacrimosa di Mozart, per esempio. E mi è parso giusto incorporarlo in questa comunque canzone che parla di queste lacrime, come dicevo prima, non però come momento di come dire, sconfitta nella vita. Sì, non sono vita sterili, come è scritto. Sono una sorgente di, esatto, qualcosa poi di buono, insomma. Bene, allora proseguiamo con l'ascolto di quello che è il nuovo CD di Michele Gazic, L'Imperdonabile, ascoltando un'altra traccia da disco. È il finale della seconda parte di questo CD, si intitola Grano di Luce. Se il mondo è dei violenti, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Andava pian pianino sfumando questo pezzo grano di luce per indicare che era anche il termine del disco, per dire riprogrammi ancora, fammi ascoltare ancora qualcosa di mio. Michele Gazzici in questa serata con l'imperdonabile. Grano di luce, da dove deriva questo grano, Michele? Ma questa canzone Grano di luce è tutta una canzone d'amore. E quindi il grano di luce è la persona amata, la persona che ti accompagna e che ti sta accanto, e che è come un grano di luce nel sole. Ed è caratterizzata da un'orchestrazione di archi meravigliosa che ti prende, che ti avvolge praticamente. Ma ti ringrazio, questa è come la prima canzone, quella che gli apriva l'album L'Imperdonabile, si caratterizza per queste orchestrazioni di matrice classica, e mi faceva piacere che fosse come un solenne inno all'amore con il quale chiudere questo discorso, che infatti si chiude con la domanda "posso restare con te?", ed è un amore che si rivolge contemporaneamente alla persona amata o a chi sta al di sopra di noi, insomma, a Dio e alla persona amata. Benissimo, allora ricordiamo che per avere ancora qualche informazione in più sui lavori di Michele Gazzici, quindi non solo su questo ultimo lavoro, L'Imperdonabile, si può andare direttamente nel tuo sito internet, Michele, vogliamo ricordarlo ancora una volta? Sì, il mio sito è michelegazzici.it. E sono come tutti su una pagina Facebook a mio nome, sempre persona Michele Gazzici, non appunto artista, perché ritengo che un uomo sia appunto di più di un artista, di conseguenza ho chiuso la mia pagina artista su Facebook. Benissimo, allora cogliamo questo, quindi ascoltate la musica di Michele Gazzici, andate a trovarlo nel suo sito internet e poi, se volete, perché no, diventare anche amici di Michele per vedere anche quelle che sono le attività che lui pubblicizzerà su Facebook, insomma è sempre una cosa bella. Benissimo, allora noi purtroppo siamo arrivati al termine della nostra programmazione serale. E quindi salutiamo Michele Gazzici, salutiamo anche Marco Lamberti che è venuto con noi per questa bella diretta con tanta musicalità anche dal vivo. Vi ringraziamo molto perché, come vi dicevo, è un raro caso in cui in radio si può, oltre che suonare, approfondire qualcosa e parlarne. È stato un momento di incontro, come sempre qua. Michele diceva prima, Flavio, mentre il pezzo andava, che quando passa per Padova un giretto da noi lo fa sempre. Quindi benissimo, e noi lo ringraziamo, abbiamo sempre le porte aperte, anzi nel caso fossero chiuse diamogli pure un duplicato delle chiavi. Sì, allora noi lasciamo il microfono aperto ancora per Michele Gazzici e Marco Lamberti. Noi Maurizio invece salutiamo però lasciamo all'esibizione di un ultimo pezzo dal vivo con quella che è intitolata L'ultima canzone, che è un pezzo dall'album Michele Gazzici e La nave dei folli, che è una lettera, diciamo, in questo caso un envoi, come si vuol dire, che parla di Michele in una delle sue prime esperienze di canto proprio all'interno dei CD. Esatto, è la canzone che chiudeva la trilogia della Nave dei Folli, ed è di solito la canzone che chiude i miei concerti. Mi piace, l'ho intitolata Ultima canzone d'amore, e mi piace pensare che quando io me ne sarò andato e quando le mie canzoni saranno dimenticate, fenomeno che può avvenire o prima o dopo, questo non è chiaro, la mia dipartita, tuttavia resterà l'amore che ha ispirato tutto ciò. Benissimo, allora noi salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, buona serata a tutti, vi lasciamo con Michele Gazzici e Marco Lamberti per questa ultima canzone. Grazie ancora di essere venuti. Grazie a voi. Grazie a tutti, ciao. Thank you. vado, amici cari, ma vi lascio una canzone. Io l'ho fatta con le pietre più preziose che conosco. Lo smeraldo per il mare, il turchese per il cielo, il rubino per il cuore, il diamante per il sole. Me ne vado, amici cari, ma vi lascio una canzone e vi lascio anche tre navi pronte per salpare. Una nave per partire, una nave per tornare, una nave all'orizzonte, oltre l'ultimo. Vi lascio una canzone, spero la ricorderete, forse l'avete già scordata, ma resterà l'amore, l'amore che l'ha ispirata, quando io sarò andato e la canzone dimenticata. Blu Radio Sera.